fresca come insalata. Non passi il tuo cammello mal di sotto della cruna. Non poni mai un giudizio che a scamparlo ci vuol fortuna. Non so mai cosa pensi, non so mai cosa dici. E se non hai pazienza, scegli la via sicura. Ti porterà lontano come vento sulla pianura. Tu con il tuo fardello sai che la vita è dura. Ti senti addosso un masso ma volteggi come una piuma. Tu che con il tuo passo ci attraversi la vita intera. Svelta come un coniglio ed il silenzio di una pantera. Cosa c'è dentro?